Vendo tutto di Matteo Caccia. Da qualche tempo vivo senza la Vespa, senza la TV e senza la mia borsa a tracolla. Non gioco più a tennis, non scio più e non vado più a teatro. Eppure vivo bene uguale. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme, lo so, capita, succede a tutti e stavolta è successo a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo un giaccone. Provo grande stima nei confronti della persona che mi ha venduto questo giaccone. Sono le 16.08, questa è Radio 24 e sono Matteo Caccia. Finalmente la redazione è stata reintegrata. Laura Faggini è tornata dopo questa sbronza da fine settimana. Qui con noi, vive, lavora e così spera di noi. 800 24 0024 349 238 6666 perché oggi vorrei parlare solo con venditori professionisti. Sapete, io ho una grande passione per i consulenti. E ho una passione, diciamo, un po' meno grande, però comunque ho una passione anche per i venditori, perché ho questa sensazione che i la diciamo subito, che i consulenti, se possono, ti fregano. I venditori sempre ti fregano. È così per ringraziarmi i venditori e chiedergli di chiamarmi 800 24 0024 349 238 6666. La questione è questa qua. Non so se l'avete visto il mio giaccone, se non l'avete ancora fatto andatelo immediatamente a vedere radio24.it oppure sul sito Facebook del programma che è Matteo Caccia Vendo Tutto. È un giaccone che è... Sì, non credo sia brutto. Però veramente non c'entra niente con me. Adesso vi racconterò esattamente com'è andata quella mattina in cui l'ho comprato. Però la cosa è stata esattamente questa, che la commessa mi ha convinto, ma con una facilità, con una geometria anche di argomentazioni, che ha, chiaramente con un coup de théâtre finale che vi racconterò a breve, per cui io ripeto, nonostante abbia speso un botto di soldi per questo giaccone, nonostante l'abbia messo 2 volte, io provo stima nei confronti di questa persona così in grado di vendere, ed è per questo che chiederei a tutti i venditori all'ascolto, parlo di commessi ovviamente, commercianti in genere, agenti di commercio, ce ne sono diversi che ci ascoltano in macchina, ambulanti anche, se state ascoltando, guardate, se siete un concessionario d'auto e mi chiamate, giuro che non so, insomma, semplicemente sono contento. Insomma, venditori di tutte le razze, fogge e taglie, 800 24 0024, mi raccontate quella volta in cui veramente avete venduto una roba, avete fatto un capolavoro con quella vendita, avete l'acquirente è arrivato, non aveva nessuna intenzione e voi gli avete rifilato il vostro prodotto. 800 24 0024 349 238 6666. Ad esempio Laura prima mi raccontava, visto che si parlava del mio giaccone, lei per non farmi sentire un imbecille definitivo mi ha raccontato del suo abito e devo dire che da come l'ha raccontato anche la commessa deve essere stata molto in gamba, anche la sua. Un completo, prova a ripetere quello che mi hai detto Laura, un completo voile celeste matigrato, attenzione, una canotta scollata con un golfino che aveva delle maniche a pipistrello. Io lo ammetto, ho fatto la mia solita figura, ho detto mamma mia che schifo, lei mi ha detto no, adesso lo mette mia mamma. Bene, salutando anche la mamma di Laura Faggini, 800 24 0024, solo venditori professionisti, mi raccomando, e non voglio acquirenti oggi, voglio solo gente che vende di mestiere, ripeto, ambulanti, commercianti, commesse, e che mi racconti quella volta in cui ha fatto veramente un numero da circo e è riuscito a vendere il prodotto. Guarda, prima ho cercato tecniche di vendita su Google, sul mio amico Google, sai che c'è questo, Paolo, sai che c'è questo, ti dice tutto, tecniche di vendita, la prima cosa che è uscito è un corso di vendita semplice, vi leggo giusto i punti del corso. Sapere distinguere tra domande e obiezioni del cliente, comprendere le nostre obiezioni involontarie, ribaltare un'obiezione e usarla a proprio vantaggio, capire le tipologie e i comportamenti dei clienti, ottenere l'attenzione, rimuovere i propri condizionamenti negativi e l'ultimo punto, il mio preferito, sapere ascoltare, perché devono insegnartelo. 800 24 0024, ripeto, solo venditori professionisti, 349 238 6666. Adesso vi racconto invece la storia del venditore che mi ha rifilato questo giaccone, per vederlo radio24.it, per sentirla eccola qua. Il giaccone. Giaccone invernale marca Made in the Shade. Taglia media, materiale lana 100%. Colore nero e bianco, chiusura lampo, 2 tasche interne, 2 tasche esterne. Perfetto per dare sfogo a quella parte selvaggia che ognuno possiede. Valore commerciale 200 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 0024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Ognuno di noi ha un'immagine ben precisa di sé e cerca di proteggerla. La mantiene viva mangiando certi cibi, vivendo in un determinato posto, andando al cinema a vedere certi film, leggendo un quotidiano piuttosto che un altro e soprattutto vestendosi in una certa maniera. Ognuno di noi si racconta una storia su di sé e poi attraverso quello che fa cerca di raccontarla agli altri. Personalmente non mi vesto mai troppo elegante, però nemmeno troppo casual. Metto le camicie con i jeans, alterno scarpe da ginnastica a scarpe più serie, uso giacche dal taglio sportivo e in inverno alterno giubbotti tecnici alla tipica giacca da marinaio. Poi, un bel giorno, ho deciso di cambiare stile. O meglio, più che altro mi sono detto che ero stufo di mettere sempre le stesse cose, solo che l'ho fatto in maniera un po' avventata, senza riflettere sul fatto che cambiare abiti significa cambiare il modo che abbiamo di dire chi siamo. Però era una mattina di primavera, io non avevo molto da fare e mentre mi infilavo il mio giaccone, quello che avevo portato per un inverno intero, decisi che quello era il giorno giusto. Andai a fare colazione al solito bar, poi mi misi a passeggiare lungo il Naviglio Pavese, il più piccolo dei due navigli di Milano. Sentivo addosso come una strana euforia, una cosa che secondo me capita più spesso alle donne che agli uomini. Una specie di carica elettrica sotto pelle che ti porta a vedere in tutto quello che è esposto nelle vetrine un acquisto possibile. Io ero vestito come sempre. Sentivo che ero stufo di quel modo di farmi conoscere dal mondo. Dovevo metterci un po' più di entusiasmo, un po' più di stravaganza, ecco, e soprattutto un po' più di coraggio. Fu esattamente mentre nella mia testa si materializzava la parola coraggio che questo giaccone mi apparve. Era appeso ad un manichino senza testa. Tutto intorno era un fiorire di abiti di lana con ricami tipo indiano navajo. Non c'era niente in quel giubbotto che mi avesse mai attratto prima. Le maniche di lana nera pelosa, la fantasia sul petto, il collo alto. Ad analizzare la mente lucida, quel giubbotto non andava bene per me. Eppure aveva qualcosa di selvaggio, qualcosa di misterioso che quella mattina avevo deciso di provare. Se fossi passato davanti a quel negozio il giorno prima o quello dopo, probabilmente non l'avrei nemmeno visto. Ma quello era il giorno in cui avevo deciso di osare, di raccontarmi una storia diversa su di me. Quindi non ci pensai più di tanto. Feci un respiro ed entrai nel negozio. Perché alla fine gli acquisti appartengono più o meno a tre tipologie. L'acquisto d'impulso: cammino per strada, vedo una cosa, ne sono folgorato. L'acquisto per necessità: le cose di cui non posso fare a meno, il cibo per mangiare, le scarpe per camminare. E l'acquisto compulsivo: però quella è quasi una patologia, quindi lasciamo stare. L'acquisto di questo giaccone è un po' fuori da questi schemi. È una categoria che gli studiosi di marketing probabilmente non conoscono, perché ha più a che fare con la psicanalisi che con la teoria del consumo. Appartiene al genere «voglio cambiare la mia biografia». Ecco, fu con questo spirito che entrai in quel negozio. A differenza delle leggende che si raccontano sulle commesse dei negozi milanesi, la ragazza che mi venne incontro sembrava la sorella di Homer Simpson. Io le dissi che volevo provare quel giubbotto e lei mi lanciò uno sguardo che poteva essere preso come «tu sì che te ne intendi». Oppure esattamente il contrario. Eccolo qui, il pollo che ci libera di quella robaccia. Mi disse che ero fortunato, che quella era l'ultima taglia rimasta. Nel negozio c'erano altre tre o quattro persone e non so perché, ma mi pareva che tutte avessero smesso di interessarsi agli abiti e stessero guardando nella mia direzione, come a dire «vediamo se ha davvero il coraggio di comprarselo». Io mi tolsi la mia giacca da marinaio e mi infilai il giaccone che la commessa mi stava porgendo. La sua prima frase fu come uscita da un copione mal scritto. «Guarda, ti sta benissimo». Che è veramente incredibile come questa frase funzioni sempre. Cioè, anche se sappiamo che il loro mestiere è vendere, no? Anche se sappiamo che lo direbbero a chiunque con addosso qualunque vestito che hanno nel negozio, questa frase, proprio per il fatto che ce l'aspettiamo, ha un potere talmente rassicurante che quasi è terapeutica. Ah, guarda, poi tu sei alto e ti sta ancora meglio. Eccola qui, la seconda frase che mi aspettavo. In tutto questo io non avevo ancora avuto il coraggio di specchiarmi. Tenevo la testa bassa, fingendo di aggiustarmi la zip o di sistemarmi le maniche. E poi finalmente alzai gli occhi e mi specchiai. Sembravo un pecoraio con velleità fricchettone. Cioè, non capivo come in vetrina potesse avermi colpito questa cosa di lana informe. Cominciai a girarmi di tre quarti prima a destra, poi a sinistra, nel tentativo di prendere tempo e trovare qualcosa di intelligente da dire, per esprimere il mio dubbio, quantomeno. Non volevo ferire la commessa, però non volevo nemmeno ferire me stesso e le idee che mi ero fatto prima di entrare in quel negozio. Lei però, che il suo mestiere lo sapeva fare come, colse nel mio sguardo un lampo di esitazione e subito buttò benzina sul fuoco che si stava spegnendo, dicendomi che era in saldo, che costava la metà del suo prezzo originario. Io dissi un ah, evidentemente non molto convinto, e allora lei si giocò tutto. Sparì in uno stanzino sul retro, tornò con una rivista in mano. Me la porse e, indicandomi la foto sulla copertina, mi disse: guarda, in questa foto anche Ben Harper ha addosso quel giubbotto. Il tempo si fermò. La commessa mi guardava, i clienti mi guardavano. Io mi guardavo mentre tenevo in mano una rivista su cui una rockstar indossava lo stesso giubbotto che indossavo io in quel momento, solo che lui era un gran figo e io ero un gran cretino. Ma proprio seguendo il brutto copione che era iniziato con la battuta della commessa, io lo chiusi con l'unica battuta che potessi dire: beh, se ce l'ha Ben Harper, allora me lo prendo. Ecco perché, nonostante tutto, sono felice di liberarmi di questo giubbotto. Il suo valore è di 200 euro, la base d'asta 99 centesimi. Se siete venditori professionisti, 80024-0024. C'è stata la corsa a vedere il mio giaccone alla Ben Harper. Mi scrive Fabio da Bergamo: come hai fatto a farti convincere? È brutto forte. Ti consiglio di spacciarlo come indossato da star. Se vuoi sapere se sono rappresentante capace, guarda più i miei... guarda i miei più nei budget. Abbracci, Vittorio. Michelle, settore orologeria. Il grande affare deve essere la sapienza di non volere vendere alla prima volta un prodotto, bensì vendere bene il tempo della prima volta per le successive. Ragazzi, questo è un maestro. Ciao e grazie a te. 80024-0024. Grandi venditore e grandi storie di vendite. Cominciamo subito con Davide da Milano. Pronto? Ciao. Ciao Davide, come stai? Bene, bene. Tu? Bene, bene, grazie. Tu cosa vendi? Io vendo antiquariato. Che tipo di antiquariato? Antiquariato orientale. Ah, ok, quindi tipo cose dal mondo. Cinesi, giapponesi, tappeti. E che cosa hai venduto a chi non lo voleva? Era il mese di agosto, i primi di agosto, quindi eravamo proprio agli sgoccioli per andare in vacanza. Entrò in un negozio, avevo fuori due bei vasi cinesi e questo era un po' titubante, guardava, allora gli dico: guardi, le dico che questa è un'occasione, siccome devo andare in vacanza ho bisogno di tot, e gli ho detto la cifra, quindi sono disposto a lasciarlo, però non voglio né assegni né niente, se lei me lo paga in contanti, perché questi soldi mi servono proprio per partire. Beh, quello è uscito, è andato un bancomat e mi ha portato i soldi e si è portato via i vasi. Quanto venivano i vasi? Cinesi, no? Doveva decidere. No, la cifra non era, insomma, si parlava ancora, beh, non c'era ancora gli euro, però erano 900.000 lire. Scusa, secondo te 900.000 lire quant'è? Era poco o tanto? No, era il prezzo. Il loro prezzo, ovviamente. Guarda, sei fantastico. Sei il mio commerciante preferito. Già, era il loro prezzo. Grazie, Davide. Buona giornata. Grazie, ciao. Grazie. Andiamo a Lodi da Antonio. Pronto? Ciao, Matteo. Ciao, Antonio. Anche a te. Tu lavori noi in coppia, mi dicono. Noi, a dire la verità, siamo in due venditori in macchina, perché viaggiamo sempre in coppia, perché cerchiamo di convincere il cliente in due. E cosa vende? Quindi siete in macchina in due in questo momento? Sì, esattamente. Come si chiama l'altro? Alessandro, e ti sta ascoltando con l'altra auricolare. Bravo, raccontami che cosa vendete. Noi vendiamo un prodotto difficilissimo da vendere, che è la prefabbricazione industriale e il fotovoltaico. Però industriale, quindi si parla sempre di tantissimi soldi. Quindi capannoni, giusto? Più o meno. Esatto, il famoso capannone. Ma scusami, ma il fotovoltaico, Antonio, non dicono che tiri alla grande adesso? Tira alla grande, sì, ma tutti ti chiedono i preventivi, poi non c'hanno i soldi per pagarli. Senti, dimmi al volo, perché ho un sacco di telefonate in attesa, dimmi al volo. Guarda, subitissimo, noi convinciamo il cliente alcune volte facendogli pena e tante altre volte facendo i brillanti, dipende a chi abbiamo davanti. Dimmi l'ultima cosa che hai venduto, quanto valeva la cifra, dico proprio? 3 milioni di euro. Grazie Antonio, buona giornata. Ciao. Ciao, ciao, alla prossima. Andiamo a Varese, andiamo da Riccardo. Pronto Riccardo? Oh, buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno a te, mi dai del voi o diamoci del tu, no, Riccardo? No, lo dico a te, lo dico agli ascoltatori. Bravo, insomma. Tu che cosa vendi? Allora, io lavoro per una multinazionale profumeria selettiva, non diciamo il nome, è un'azienda molto importante e molto conosciuta. Ho a che fare quindi con, non con i clienti finali, ma con le profumerie che valutano il prodotto prima di proporlo ai clienti finali. Okay. Ed è una vendita quindi indiretta, business to business, ma simpatica, divertente e qualche volta complicata. Guarda, anche, perdonami, anche il termine una vendita simpatica è veramente da venditore. Vai pure avanti, scusami. Succede un paio? Un paio di anni fa succede che l'azienda lancia un prodotto molto molto difficile, le donne lo capiranno un po' di più, nasce un fondotinta spray, molto bello, dall'effetto molto, molto sofisticato, ma molto difficile dall'applicare, sarebbe ai nostri occhi, insomma, sì, non sarebbe stato un prodotto semplice da vendere. Succede quindi che si va in una profumeria, inizia una contrattazione muscolare, infinita, dura un'ora, insoddisfacente, alla fine della quale ho detto, beh, signora, Alti Valle Bergamasche, quindi molto aiutato dalla geografia, sì, eventualmente può essere comunque proposto come calze colorate. D'estate c'è il problema che le calze danno fastidio, il fondotinta che peraltro tiene non macchia è la soluzione ideale. Ce l'hai fatta? Impianto acquistato. Riccardo, sei il mio maestro, grazie mille, buona giornata. Grazie. Andiamo con l'ultima, purtroppo al volo da Bergamo, Osvaldo. Sì, ciao a tutti, grazie. Ciao, mi spiace, purtroppo ho poco tempo, però so che tu vai subito al punto. Beh, niente, io sono agente immobiliare e 16 anni fa. Sì. Ho venduto una casa vista lago dove il lago non si vedeva. Osvaldo, direi che più di così, guarda, mi basta così. Grazie mille, buona giornata. A te, ciao. Ciao, alla prossima. Gabriele, certo che se prima di questa puntata qualcuno si aspettava che tu fossi un pirla, ora si sarà tolto qualsiasi dubbio. Grazie Gabriele, grazie a Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Paolino Corleoni. Il Giaccone è sul sito, andate a vederlo perché vale la pena. Radio24.it, Facebook, Matteo Caccia, vendo tutto. Domani vendo una maca brasiliana. Voi invece mi raccomando, non fatevi torlupinare dai venditori, perché alla fine anche una rockstar è solamente una rockstar. La, la, la.